numero del connettore. Ascolta, tu fra quanto sia il connettore, dai, che vengo in macchina a prenderti. Dammi un quarto d'ora, va. Va bene, dai, fra un quarto d'ora io sono lì. Va bene, Roger, ora tengo tutto là. Ci va fra un poco. Via. Attenzione, Antonio Riserva. Cazzando l'uva, che si fa? Cazzando l'uva è sempre mezzo di bere. Se chiudi, se chiudi, se chiudi, se hermano, vamos a escuchar de Sardegna, che sta chiamando un veicolo. Vamos a escuchar de Sardegna, che va chiamando un veicolo. Legge non si può tagliare responsabilità. Sì, ma una volta sapevo niente. Non sapevo niente, erano le prime armi. Ma qui sì. Vabbè, non mi piace la guerra. Già, no, dai, io... Cioè, certo. Lo grosso, ora tu ci puoi fare. Perché non la metterà proprio l'armata. Questo è il problema. Dopo che hai stupito già. Tanta gamba. Luca lì. No, ma siccome la sera ci abbassa il volume, sento che abbiamo risolto questo problema del che vi disturbavo come l'attacco, perché? Io devo rispondere già. Dimmi allora. Via. Era di rapida. Via. Cioè, praticamente... Vuole, come film? Non è brutto lì. Ehi, mi fa la studia. No, ma parole. Ma ho parole già. Quello lì si sente una faccia che è tranquillo, va una rucola. C'è stata un'antenna. Raggio. Tu di quelle cose non sto piazzando per fare, per stare sto piazzando, voleva. Ehi, ma tu, mi ha detto, ascolti, se dei dubbi o dei problemi, ci informi a me fare. Ma qua tu purtroppo chissà che cosa. Purtroppo se tu dici e quello la campagna. Lascio noi che mi sto a vabbè tu cosa vuoi. Visto che non sono in casa mia, attacco non c'è problema. Il cadavere, veramente è problema. Attacco, non c'è problema. Già, capito? No, no, no. No, no, attacco per... Ma cosa non raccoglie? Non raccoglie, non so, niente, no. Senti, non mi tocchi, no, mi complicare, poi non mi duca antenna, perciò. Ah, cavallino, non c'è di salvare. No, no, no, solo il cogito cambia l'antenna, già. Mi diventa prima con tutta una buccia. Ma colori più basso del tetto, molto però, molto, ma un bel, forse anche troppo. Antenna è. Ma ti sento, ti qua c'è un turismo. Chiama il malacchino adesso. E poi vedi il terrazzo, figurati. Ma tu l'ho fatto cosa fare? Non ti diceva faccio, no? Vabbè, già te la scegli. Una parabolica, una satellitare per vedere la TV. Ma sì, no, c'è il visore. Come non lasciamo più niente? Capo, come sta? Allora, tu mi guardami la, guardami il te. E poi lì... Allora, che sei? Già, interessantemente. Perciò, questa... Siccome vuole grondare, sono te. Allora, niente, la straffa è resta lì su. E tu mi lasciano? Io altro devo cambiare il palo. Ne metto uno... O forse due, tre, o due. Che cosa, no? Dove c'è lo spesso commosso? Uno spezzolino dietro. Io ho fatto contro il burro lì. Come fa? Prendi quella tabella. Capito? No, prega non mi ricordo che la era. Ma rientrano, ma tu lui già riprendo la casa. Mamma! Se il garaporto ci ho lavorato, tanti anni fa, un bel piccolo io. Ehi, ehi, il garaporto. Aspetta, ora si chiamava... Allora, era praticamente... No, aspetta, questo era il tornitore, adesso non me lo metto, già se lo facevo il tornitore. Comunque questo qua metteva a posto le... come si chiamano? Le motocoltivatori, vabbè, poi taglia erba, questa roba qua. Ma lui fa testate di macchina, spiano le testate, tutto questo. Dove? No, me lo ricordo. Ma ne va. No, questo rimane su adesso. No, no, è lui. Poi 14 anni, mi sono già passati minimo 16, ne sono passati 17 anzi. Allora, mi hai fatto un bel lavoro. Già ne ho girato, palestiere. L'ultimo lavoro che ho fatto è fare la tua meccanica, prendevo 20.000 a settimana. Siamo... Luca, mi figlio. Sali, ci hanno girato già, si hanno appoggiato, sono stato 4 mesi, quasi, lui ce la prendeva con me, cosa rientrava di me? Oh, un giorno da tisi. Sta dipendi. Che bastardo, dipendi, oh, dipendi. Ma anche della calla a popolo. Che bastardo. Che già, particolare, eh? Sveglia tu. Cosa? Sveglia tu, Gian, non appendino. Appendino. Non hai capito. Però sono attento, quando sto parlando mi intrippo un po', però mi arrangio. C'è gente che parla molto peggio di me qua, vabbè. Non mi vuole, mi posso dibattimi, ma... Ho detto, con il Mino. Sì, Mino è una luce bianchissima, anche che faceva poca luce, no? Però siccome in questo caso l'anternino non ci stava, ci stava un'altra cosa, tu hai sbagliato. No? Io ho detto che li ha cercati tutti con l'anternino, perché quando ho detto primo voglio nell'acqua, sembra che li ha cercati con l'anternino, con la luce, no? È un modo di dire, no, non ho sbagliato nulla. Tappati, tappati. Non so niente, nulla. Non capite? Cerca di capire, non so niente, però c'è un tabù totale e non si deve parlare di niente, perlomeno qua. Perché il primo che ci permette di accennare quello che io le dico ha finito di trasmettere. Ha finito di trasmettere. Scusa, a me non è che. Cioè, se me lo dici, non me lo puoi dire qua, ti pare che io o un'altra persona si metta a parlare qua nella baracchina. Mi sembra una cosa molto. No, fa prima non dirgli nulla, e poi si arrangia. Bravo, bravo, bravo, esiste purtroppo la gente che tanto per dire qualcosa o per creare questo si mette a parlare di cose che purtroppo sono molto molto importanti, però allo stesso tempo possono essere molto pericolose per chi può parlare, capito? Quindi sto cercando di tirare le somme e creare quello che è una discussione molto molto delicata, tanto è vero che sto parlando al telefono, siccome so con chi parlo, con le persone che parlo, le reputo persone molto intelligenti, poi se qualcuno è contro allora ha finito di campare, perché a questo di stare giorno e notte alla radio mi ha finito di validare. KK, già andava, no? Già andava, mi sarei preoccupato di più, magari. Cioè, se non avessi la concessione, magari, insomma, capisci a me, perché sarei stato magari pirata, allora lì mi sarei preoccupato un po', ma siccome non sono pirata, perché sono più che tranquillo. Non c'è niente tu da preoccuparti, ti ho detto, proprio zero completamente, in questo momento. Poi vuol dire più avanti, allora, ti si dirà anche a te, ma in questo momento, io te lo dico lo stesso, perché ti ho detto che una persona seria e intelligente. Però in questo momento lui a te non ti tocca completamente, perché tu sei fuori dall'argomento, mentre rientro nell'argomento tante altre persone che ci tengo ad informarle, come ci ho già fatto. Vabbè, ma sono cose di normale amministrazione, cioè sono delle cose che vanno lette giusto per essere così più allineati e compatti come militari, no? Capito? Tutto lì. Non ti preoccupare, non è roba che ti interessa a te. Riprendi già. Sì, comunque ho capito, dai, claro. Ho capito. Non ti preoccupare, io penso che sia per quello, no? Quanto se ti stai facendo capire, ti sto capendo, sto riuscendo a capire, diciamo, però non c'è problema, è meglio sempre sapere anche io queste cose. Cava, riprendi Gianni, scusa. Lettere e lettere al sottoscritto, ma questa volta è diversa. Allora, già ne parliamo in verticale, cambiamo discorso, che può essere anche pericoloso per me. Tutto per prendere i documenti, dato che si compra il vetro nuovo. Io sì. Ma mangiamo. se non si sbaglio non faccio una cosa del genere. No, perché io sono una persona tranquilla che non mi sono mai nessuno, quindi non si sa più di mettere la firma. La domenica per farmi mettere l'ante e la devo di polizia, ma farmi regalare. Vabbè, gli imbecilli ci sono a tutte le parti, tu sei capitato in una situazione balorda. Ma già, a fuggidini, parla e fregate, stai pagando, fregatene, cosa te ne, tu di turbano stai, cosa te ne frega? Ma infatti, io non sto parlando, non me ne frega nulla, sì, non prendeci le precauzioni, attaccare le cuffie, ecco, c'è il tablet, capito, parlando. Cosa dire a Fucci, non è un problema tuo, purtroppo quel muro lì è stato fatto così, non ci puoi fare niente, sei in casa tua, cosa dire a Fucci, lasciali dire, poi se ti brucia il coso, il muro, domani sarei andata, ma la vogliamo smettere sì o no, perché io sono a casa mia, io non ci posso fare niente, se no lo faccio apposta, uscire dal mio ditto. Oggi non è una buona giornata, la sera non sono uscito, ma era un freddo, ha detto rimaniamo in casa. Ieri sono passato a Porto Torre da farmi un giro, a controllare la barca. No, e com'era con quel ventaggio? No, già completa, oh, rimane la calma, mi era piatto, c'era un bel vento, ma c'era un vento di terra, era piatto. Però dentro il porto c'era abbastanza protetto, eh. Sì, io ho visto a volte macchine dentro il porto che saltavano, dal mare che c'era. Ma la valigia mi ha protetto, guarda, il vento balordo dentro il porto, almeno dove ce l'ho io, è il ponente, che è un vento non tanto frequente, da, e non arriva fortissimo. Io invece sono un po' allargato in modo che si abbia più movimento la barca, per cui se la fa di meno. Comunque, è difficile che riesci a parlare di ormeggi, se sei ormeggiato bene, non ce la fa. Vabbè, ma lo sai quali sono i problemi, non è l'ormeggi, c'è il mollone, non c'è quello. Il problema, vabbè, io sono vicino a barche piccole, ma se stai vicino a barche grandi, le trattone che ti danno le barche grandi ti spaccano le bitte. Ma sono sicuro. Sono sempre tranquillo, quando ce l'hai in mare io sono sempre tranquillo. E se per tu l'hai entrato, chi non è qua, è là, invece quando ce l'hai prendi un capannone. È una cosa diversa. Io non so, non lo voglio salire adesso, io normalmente il periodo dell'anno ne l'assaggio, però siccome l'anno scorso l'ho stessa molto in ritardo, ho detto ormai la tengo di lì, poi vediamo, magari mi metterla in secca un mesetto, non lo so, per farla asciugare, perché è sempre meglio farla asciugare la vetrorisina, non lasciarla mai in acqua, tutto l'anno. Poi tutto restaurata non c'è problema. No, vabbè, quello già è vero, però è un rompimento di scatole perché mi chiamano la gru, la devo mettere sul carrello, salire la Sassari, fare i lavori, poi tornare a scendere, di nuovo con la gru e ho lavorato, devi perdere mezza giornata solo per fare quel lavoro. E ti prende molto? Dipende, certe volte 50 euro, 60, dipende da come è in giornata, no, ma diciamo abbastanza economico, se vai al ghiero ti chiedono 200 euro, 300 euro. E non ricordo se la via agli ormeggi al ghiero, al pontile, quello mobile. Anche io sono ladri, che è una cosa assurda, i prezzi di quel posto, io diciamo pago relativamente poco, perché mi pare pago per tutto l'anno intorno a 500 euro circa. Vogliono aumentare del 30%, io la pagavo molto di meno, comunque è un prezzo ragionevole considerando che ce l'hai a 20 km da Sassari, anche io devi fare 35 km, ci vuole un'ora arrivare, se c'è traffico non faccio più mai, eccetera eccetera. Dal mare la domenica mattina o al rientro, già ci arrivi in 5 minuti, devi fare il giro da Bosa per arrivare al ghiero. No, noi partiamo presto, io quando non riusciamo usciamo verso le 7 e mezza, capito? Quindi gente che va al mare a quell'ora non ce l'è. Alle 7 e mezza noi stiamo già uscendo in barca, se andiamo a pescare è così. Ah vabbè, se ci così presto non c'è nessuno, provo ad andare verso le 9 e mezza così, a quell'ora di punta, a vedere quando ne esce. Sì. Comunque a parte gli scherzi, Mario, risolta la questione della lavatrice. Oh, sì, riuscita a aprire, perché ha chiuso la nuova vestata, probabilmente dalla fabbrica, e il figlio ha provato bene un colpo e ascolta, se mi dovrei vedere qualcosa sono qua, No, no, Mario, no, non si può dire niente qua, al limite ci andiamo domani. KK, ok. D'accordo, va. Rispondete che sono qua, sto navigando. Facciamo una cosa, domani troviamoci qua a Roberto Quadrato, ti faccio un colpo di telefono. Tu ce l'hai il telefono di Mario? No. Neanch'io. Neanch'io. Vabbè, vedo di procurarlo. Oh, Claudio. Sì. Sulla chiusura così non ci sono problemi, va bene, perché ma io alle 7 posso uscire, prima non posso uscire, capito? Vabbè, ci vediamo lì, telefono Antonello, al limite dico di telefonarlo a Mario, e ciao Mario, ci vediamo telefonati dopo le 7, se ce la fai ti avvicina a Roberto, lo sai dove vanno vicino a Roberto? Appa. Allora vai, rimaniamo ancora così, dopo le 7 ti avvicini lì, tu e Gianni, e così dico questa cosa e niente, va bene? Vai, kappa, così ci prendiamo il caffè. Ok, d'accordo, vai, chiuso il discorso, ci vediamo domani sera e poi ne parliamo di persona, va bene così, avanti Lu. Guarda, cosa ti volevo dire? Guarda, non riguarda neanche a Roberto, ho capito cosa è già, dai. No. Appunti dini, Lu, mi metti in difficoltà. Appunti dini. Hai capito che? Finito, Lu. Chiuso che mi metti in difficoltà, dai. Vabbè, non c'è problema, cava. Se lui è ancora più vendita, porco buia. Vabbè, io me la fumo, va. Ripeti, Roberto. Via. Allora Gianni, e tu lavoro? Sabato ti ho fatto, ma tu lavori vicino a quel supermercato dove faceva il consorzio, in quella zona lì? Lavoro lì, sì. Solitamente sono lì la sera. Ma non ci sono mai andato io di lo sai? Non ho idea di come sia fatto, neanche. Male, senti, non vedi, non va bene. Ma io ti abbiamo detto, però la lascio a fare tanto, sarà la solita studia. Attenzione Antonio riserva la manta che te ne scenda. Ti rispondo io Lu, Antonio siamo sentiti al telefono, è incasinato un pezzo, c'è il gente, sta facendo cosa, e ha detto che la radio non poteva entrare. Era una cosa urgente per lui, va bene. Ok, Bianco che io sono un attimino dopo mettere il telefono, riprendi Mario. Kappa, così è, vabbè. Quando stai respirando la tua, ricordati anche della mia, Robè. Lo sai? Quando stai ristrutturando la tua, ricordati anche della mia. Ecco, ma io non devo ristrutturare niente, io al massimo la metto in secca e le do antivegetativa e buona, ma che la barca è a posto, grossi lavori non la devo fare. Anche la mia è a posto, mica devo fare grossi lavori. Allora, volevo fare qualcosina al motore, ma non me ne ha fatti nulla, rifare il coppetto, riverniciarlo, ma non me ne ha fatti nulla, dai. Non ho queste pretese, dai, di avere il motore lucido. Sì, lo so, non è ossidato, il problema è che dove ci sono gli adesivi lì c'è qualche meccatura, ma me l'ho proposto a questo livello di riverniciare il coppetto, di farlo nuovo e prendere gli adesivi nuovi, ma ho detto, ma cosa me ne frega, tanto il motore non è nuovissimo, più che fosse stato un motore nuovo. Oh già, ma dove lavori tu? Vendete anche, cioè solo alimentari o anche altri, ci sono altri negozi in quel conto? No, è solo commerciale, c'è Lupi in dentro, c'è Bricco in legno, c'è Lombrico in legno, poi c'è anche il Carato che adesso ha chiuso, ci sono i parrucchieri della Gimal, e insomma c'è il bar sopra. Ah, no, io pensavo fosse tipo la classica Sisa, perché cioè vai lì dentro, c'è solo alimentari, ma tu vedete c'è anche altri prodotti oltre che gli alimentari. Tutto, cioè la parte alimentare, poi ci sono le scalinate, ci sono le ma il gruppo Sisa canta, ne ha allocata lui. No, non si fa nulla, ne ha allocata il conduttore. Ne ha allocata c'è la zona di Sassa, il conduttore c'è la ma sta solo i prodotti dalla Sisa, non c'entra niente con quello, no, pensavo di... Ma alcuni, effettivamente è molto carino perché sembra un, diciamo, del vecchio stile, una vecchia stazione in vecchio stile, da un hangar della stazione, bello, a me piace. Allora, così lì erano prima i granai, infatti si chiama granai, il posto. Erano dei granai del consorzio, capito? Non li hanno fatti buttare giù, perché avevano delle pietre antiche, non so che cosa, abbiamo dovuto unire tutti dei capannoni con un... rispettato lo stile ed è giusto che sia così, no? È una costruzione storica, diciamo, non bellissima, diciamo, dal punto di vista estetico, però è storica, è rimasta così da un sacco di anni, è inutile tutta l'intera per costruire un capannone squadrato come li stanno facendo adesso. Noi avevamo un diverso progetto, non era squadrato il nostro, fare sulle case, insomma, un sacco di roba. Ma ci sono anche parcheggi, ho visto, o è solo per cucchi? No, ci sono giù, ci sono su. Ma su due piani ci sono i parcheggi, non lo so, per voi l'ho visto solo passando così con la macchina, non ho mai avuto la possibilità di entrarci. No, c'è il parcheggio, è quello che abbiamo finito, c'è la presenza, c'è sotto l'aria. C'è sopra e poi c'è dietro anche. Io la posso dire, no, ma no, non sembrerebbe così visto da fuori. Per cui è una bella cosa carina, allora, già ci capiterò, sicuramente l'estate ci capiterò molto più spesso, ma un sabato, magari, è aperta anche la domenica mattina a questo posto? Certamente sì. Ma solo l'estate o solo anche l'inverno? Tutto l'anno. Però tu non lavori la domenica mattina? No. Meno quello, dai. Allora, già capiterò, io l'altra volta per fare la spesa, quando siamo a Maria Pratamona ci capita, ma andavo quello su Balai, come si chiama? Lì LD mi sembra, LD Discount, quello che rimane vicino alla luce temperatura, vabbè, luce temperatura, diciamo a Balaia con le, come cavolo si chiama, prima della spiaggetta di Balai. In via Lungomare? Via, proprio lì. Però un po' caruccio mi sembra come posto. E poi qualche volta sono andato, come si chiama quello, il via delle Vigne, cos'è, Melunga, boh, non mi ricordo. È Melungo. Quello di via Mare è nostro, non Sisa. Sì, no, non è Sisa, questo qua mi sembra LD Discount, è un buchettino che ha tre parcheggi per le macchine. Hai capito dove sto dicendo? No, è salutare. Sì, ho capito, via Mare è Croce, quella lì. Noi la chiamavamo via Cosa, come si chiama, quella che mi hai detto prima, la San Napoli, che rimane quella strada larga, quel segmento della strada larga, l'hai visto dove hanno aperto, c'è la bifurcazione che a destra ti porta a Cosa, come si chiama, per Balai, a quella dritta dove c'è l'ingresso del portatore, ti parlo dalla parte di Pratamona, diciamo. No, dicendo via delle Vigne, no, qua, no, Gianni. Ma che parlate in due. Gianni? No. Non c'è da quella che c'è in via delle Vigne che poi si incrocia con quella via che scende dal satellite e sbucca lì al semaforo vicino a Balai? No, lì non c'è lei, non c'è lei spavarcati, ma non mi risulta che ci sia spavarcati. Gianni, c'è presente tu la strada della torretta? Sì. Sempre visto in quella strada lì, arriva a un certo punto dove hanno messo quel semaforo che è sempre spento e quella di destra porta verso Balai, la spiaggetta di Balai, e se la prosegui dritta c'è una strada larga e c'erano i corso rallentatori, i dusci rallentatori, ti ricordi? Sì, fai il ritornito, c'è nel giù e c'è la visuale del mare di Balai, sto dicendo giusto, quelli di qui, lì, già, io lo so, poi ho visto i prezzi, sono più che buoni, l'assortimento è molto vario, è quello di Coso, quello Lidl, come si chiama, quello che c'è nella via che buca poi sull'ingresso del posto. Sì, a principe di che notte. Sì, ma non c'ha prodotti buoni, c'ha scarto. Tipo di una sua di marca, l'unica marca che ho visto è Coca-Cola, anni Eurospin. La roba di Eurospin sinceramente secondo me è molto scadente, cioè vale per quello che costa, non di più. Però se posso dire, rispetto ad altri di questi grossi distribuzioni di marche fotomarche, diciamo, senza essere pubblicizzate, le ho viste più che buono il prodotto, da. E quel prezzo era abbastanza vantaggioso, da. Allora, è uno spinca di prodotti che sono molto, molto buoni e superiori a quelli di altri supermercati di marca. Se tu compri quelle mozzarelle, quelle grandi, non dico le piccole, quelle grandi, Land si chiamano, e le apri, esce il latte fuori invece dell'acqua, la pizza, sono saporissima, ma buone, veramente buone, la roba di latticini si sta buona, di yogurt, quella roba lì, e quello che sembra Filadelfia, che è sotto un'altra marca, il latte, tutta quella roba lì si sta buona, perché io l'ho provata e ti assicuro che è buona, e in più quella carne che sembra carne cimenta, è favolosa, ma sembra tutta una carne cimenta, tu mangi carne cimenta, tanto non te ne accorgi. Guarda, io sono mia madre e loro sono fissati, vanno sempre di lì. Dice i prezzi convenientissimi, io vado a fare la spesa sempre da multiedro perché ormai so come muovermi, eccetera, eccetera. Ci impiego un attimo, eccetera. Ho fatto un confronto di prezzi, ho fatto la spesa prima da multiedro, la settimana dopo la stessa cosa l'ho fatta da Eurospin. Ho risparmiato 5 euro e mi mancava la Nutella, per cui i prezzi sono uguali, non ce ne sono grossi vantaggi. Ma ci sono, io me ne sono accorto tra un negozio dove andiamo sempre, di cui non voglio fare nomi, e lo sì, e c'è la differenza, in certi negozi ti lasci 150-200 euro come nulla, comprando la stessa cosa, e lì per dire con 100 euro te ne uscivi. Non lo so io invece non ho notato la differenza. Come quel tuo studio di quello che c'è via Milano, l'hai visto quel negozio, quel supermercato? No, non l'ho mai visto. Ma nell'ippodromo, dove c'è la concessionaria Lancia, l'hai visto la concessionaria Lancia? Sì, lo so, via Venezia. La patata, io ce l'ho andato a dire, ma quella è proprio roba scadente che non ne può più, la pasta, mamma mia, non ne abbiamo mangiato tutti, no? Una volta l'ha preparata, così abbiamo preso le conserve, mamma mia, roba scadente, ma proprio, mamma mia. No, la pasta, quello che risparmi, i soldi, poi ci lo rimetti in gas perché ci vogliono 8 ore per cucinare. Io la pasta compro solo Barilla, tu mi vuoi far vedere tutta la pasta, ma non che non sia pasta fresca quella che vendono nel reparto su gelati che è quella fresca di pochi giorni, se no solo Barilla, paghi un po' di più però almeno sono sicuro la pasta è buona. No, io mi dicevo Barilla, forse Agnesi, pasta la meglio della Barilla sicuramente, però qualità prezzo io la reputo la migliore. Poi se mi ci sono le paste quelle fatte in Sardegna, gli gnocchetti, tutte quelle cose lì, sicuramente ci saranno anche gli gnocchetti sardi, sono molto migliori e più genuini di materie prime di qualità, però la Barilla non scherza. Qua ti blocco io, la Barilla è la migliore che c'è secondo me, la Barilla è la miglior pasta che fanno, noi prendiamo quella. Niente, buona pasta, non è che prendi quella pasta, se tu c'è la differenza, cucini per dire la Marina e tu cucini una adesso, quella Sisa, marchetta Sisa, e sarà la Sagumba. Guarda, la Ponte non ha niente da spiegare la Marina, è molto buona. No, ma la Barilla è, secondo me noi mangiamo solo quella e mangiamo altra, però la Barilla è la migliore. Diciamo che quella da Barilla non serve perché è fatta di un grano troppo duro e a cucinare li può vendere io. Ah, vabbè, a parte che si attacca anche, non si è rotta, si attacca pure. Sì, non perché fa consumare, quello che non risparmia infatti lo consumi in momola, dice mia moglie, così che a me. Infatti, ma poi c'è un pasta, c'è tipo di pasta che si attacca una con l'altra, proprio diventa una pappetta. La Barilla è la migliore che c'è secondo me. Poi, anche la Ponte non è male, i gnocchietti, la roba lì non è male. Ma la Barilla secondo me è la migliore. Noi mangiamo sempre quella. Già. Ho conosciuto anche Mario, che siete grandi cieli, diciamo più, un po' più grandi cieli di me, o quanto me, la pasta pesce, l'hai conosciuta? Sì, io ho conosciuto anche, scusa, la pasta extra, ero piccolo ma non la ricordo, la pasta extra, la pasta comune, quella sfusa che prendeva dopo la cazzola dai cassetti cielisti. Mario, te la ricordo? Certo che me lo ricordo, allora, certo che me la fate sopra anche l'estratto, te lo mandavo in cammino da voi. Ma la ricaglia che fu tutta, la ricordi? Buona è morta, ma la pasta fece è andata bene, non ho capito perché l'hanno fatta morire, io non lo sono mai riuscito a capire. Era successo, mi sembra, un mezzo incendio, poi era morto il vecchio padrone, l'avvocato, mi sembra che era, perché ci ha lavorato mio zio, 2 mesi di aveva lavorato, era dice, una ditta bella, bella, ben fatta, diciamo, funzionava bene perché vendevano un sacco di roba. Sì, la punta che vendevano, perché il pesce era nominato, e poi c'era anche la pasta mista, quella che si usava per il minestro, erano tanti tipi di pasta che si mischiava. Sembra, guarda, ti voglio dire, se c'è lì mi sembra facciano 27 tipi di pasta. Non me lo ricordo questo. Non mi ricordo che a mio padre gli davano a scaccole, quindi che ci lavoravano perché facevano i lavori, poi loro la prendevano, la compravano lì al pacificio di veniva di meno e invece che pagare i soldi la pagavano la pasta. Diceva che a mio zio poi a fine anno dice, li facevano. Quando c'era la gratifica natalizia gli davano in premio a pasta, eccetera, eccetera. Poi mi ricordo gli spaghetti te li davano in busta, te li dice dammi mezzo chilo di spaghetti, te li mettevano in una busta e te li pesava. Questo, le mentine, le giugiole, tutto grande, tutto schifo, le sigarette. Oh, adesso per questo del genere è inconcepibile una cosa del genere, ma se tu vai in Corsica, le baguette, mi ci sono le ceste, vai, i billi gurimani, sotto le ascelle e te le porti via, tutti questi svanzini. Pinze, la metti, cioè usi solo con le mani solo per lavorare nella salumeria, quello poi con le stesse mani poi ti dà il resto, si mette a fumare, eccetera, eccetera. Guarda, quello non è niente, mi ha solo quando andate in Arabia, c'è che c'è la camera appesa con tutte le mosche sopra, che schifo, ha mercato quel pesce in terra, la gente lo usurava tutto, lo girava, lo faceva, ma vai. Vabbè, ma sì, ci sono sozzoni. Ma in Corsica ci sono uno di questi algerini perché li mandavano qua i prigionieri, li mettevano in Corsica quando era l'Algeria sotto la Francia. Cioè, sono rimasti con quei costumi lì, ci sono infatti un sacco di musulmani, ma sono sozzoni. C'è gente anche pulita, ma la maggior parte, io quando vado di lì mi metto le mani in testa. Non so, usante, insomma. E sono convinto che in Arabia ha visto una cosa proprio crudele. In piazza hanno tagliato le mani a questo qua, a questo negro, perché aveva rubato, gli hanno tagliato le mani davanti a tutto il popolo con una spada di quelle, come si chiamano, scimitarra, come si dice. Fatto sta che gli hanno tagliato la mano davanti, le mani davanti a tutti e tutti hanno applaudito quando gli hanno tagliato. Allora, voglio sapere una cosa più crudele di quella, adesso dopo te la dico. Venuto un ragazzino a giocare a pallone con noi, doveva venire con noi, però adesso è rientrato. Cosa gli hanno fatto a questo? Questo era Keno, il padre era, questo è successo un mese e mezzo fa, l'hanno obbligato a lui, alla madre e agli altri fratellini, questo bambino che è presente ha 11 anni, anzi, cioè, a vedere la fucilazione del padre e dello zio. Per questo bambino è una cosa allucinante, scioccante, però l'ha presa, diciamo, noi abbiamo cercato di integrarlo, di farlo giocare, tu devi sentire parlare italiano, questo bambino c'è un paio di mesi qua in Sardegna, ecco questo si è ripartito. Ciao, buona carica. Lascia questo microfono a tavolo, come va? 5 Stelle, ho cambiato la casa, ci va. Buona dopo. Non è male, ma non ci sentiamo quantificazione adesso della vita. La notificazione si accontento subito, aspetta. Adesso, adesso è già disegnata la volazione, però rimane la via di pirazia. Questo è il link che mi è uscito da 3D, mi ha applicato la tavola. Io ho cambiato la cazzola che c'era la volante fatto. Già, per carità. Quella originale sua. E basta, era di questa apparecchio qua. In teoria, sì, dovrebbe essere questa. Gli ho ripiazzata, macchina, questo Inter che mi cede, da tempo in monta quel tipo di capsula. E io l'ho rimontata, per questo apparecchio ho visto che va veramente bene. È chiara la modulazione, non è cupa come usciva prima, non è molto amplificata, però va bene. Adesso, picchi negativi non ce ne sono, visto che sta lavorando bene. Poi c'è col microfono l'altro, palmare, l'altro mi fa la voce per la penna là di là, però più amplificata la verità. Ma sì, fa una cosa, prendi un attimo la forza di muta. Hai un po' di alternata sotto. Sì, sì, lo so. Ci ho dato parecchi la fianca a te, ecco. Adesso lo rilascio. Ce li hai sempre, io qua te li avevo, anche con il 920, ho provato a mettere il filtro con DSP inserito, rilevo sia quello all'alternata che ha detto Gianni e sia i picchi negativi con DSP inserito. Con 440 si nota di meno, mentre con il 920 si nota un po' di più, considerando il fatto che le antenne non sono per la 27 ma sono per l'HF, comunque il segnale c'è, si nota, capito? Vedi un po', Antonio, vedi un po', io non ne ho mai tolto piedi con quella radio, tanto è vero che non l'ho mai usata in AM, in banda laterale va bene, ma in AM no, non è mai andata bene, spero che metti di piedi, cosa metti di croccio. Vi lascio ragazzi, buon proseguo a tutti, ci sentiamo dopo. Roberto mi pare che aspetti, o a Luca, insomma, riprendete voi. Andiamo a riprendere a Mario che le foto da un po', dai Mario. Ciao Fla, buona carica, buon tutto, ce la riascoltiamo a condizioni migliori, cioè più tardi. Come ieri notte, forse l'ora più bella per fare due chiacchiere, dai. Ok Maria, ci sentiamo dopo, dai, anche per te, buona cena a tutti, a dopo, vai via. E c'è la Valencia di Bucco che mi ha ascoltato. C'è la Valencia di Bucco? E io quando sono tornato a quell'occale lì, acceso, te c'è vicino di niente, ti ho sentito parlando, è soltanto 2-5 secondi, poi ho chiuso perché stavo nel sonno. Siamo stati fino a luna con Mario parlando di cose un po' interessanti, quindi ci abbiamo scambiato due chiacchiere, due idee, c'era anche Antonello, stavamo facendo delle prove, capito? Tutto lì, va bene già, meglio che ci sia sempre la gente che ascolti e che e niente, che ci sia la gente che ascolti, già va bene lo stesso. Ok, anche io sono stato tardi e poi sono attaccato un po' al razzo. Mambo, sentiamo dopo, ciao a tutti, QRX per me. Ciao, ciao, sentiamo carica, avanti da me. Dipende sempre da chi ascolta e che intenzioni c'ha. Non so come si cura, ci sono gli ascoltatori buoni e quelli cattivi sempre, che stanno sempre al forzo, in agguato. Soprattutto quelli che ascoltano male, che hanno le orecchie sporche, capito? E che poi vanno a riferire cose che non sono vere. Quello è molto importante. Ma oramai ho già stabilito chi sono quelli che ascoltano e quelli che riferiscono. Non è che ci vuole molto a capirlo. Sono i birichini e quelli che vanno birichini, dai. Poi ci sono i birichini e le birichine. Sentiamo come va a cenare, va, ciao. Ma che era sul fondo, va? Azione. Aspetta, attento mio hermano, se scusi la Sardegna, delante però comprendito, è l'operatore Gianni della città dei Sassari che te va chiamando. Poi è propagazione questo. Attento mio hermano, vamos a escuchar il nord di Sardegna che va chiamando Bricco. Ma rispondi va. Adelante, adelante mio hermano, adelante, c'è un volante che sembra un diavolo, si chiudi ex. Non so cosa stava parlando Claudio, era più forte qua, Santiago 7-8 era. Sta parlando con la sua compaesana, non la sentite? Io la sento bene. Attento mio hermano, se scucci la Sardegna che va chiamando Bricco. Beh, riprendi Roberto, tutti i giorni. E allora Roberto, cosa mi racconti di bello? Questa stazione, come va? Già va bene, adesso domani tocca a te, così è, se tutto va bene. Domani mattina dovrebbero portarla, questa mattinata. Domani mattina, vediamo un po'. E quindi domani sera sei in alto mare tu? Cammino, mi auguro, va. Guarda, adesso come facciamo? sì. Bene, bene, mi piace. Sto usando la bandina. Cosa la bandina? Sono va benissimo adesso, la lavorazione in chiaro, si incassa bene. Sì, ma non è bacio l'altro, questo è un reato, questo è tutto la bandina. Gianni, comunque la innanzitutto la comemo in FM, ma male. Massimo, tu che sei? cannone, zimmi, io qua farò il primo a fare a me. Che guardo. Questo si fa da Aringa, già, chiama le 118. Fatti dare coordinate. Mi stiamo andando a Mario, una vinta e fate tutto Mario. Ti va giù la lingua. E io mi sono bevendo il caffè invece. Ah, ah, ah. Luca, siamo in anidromisi. Ma io lo prendo sempre e dormo. Ma dormi a uova, te? Allora. Ah, sono migliore o guai. No. Sì, dormo, va. Minimo quando sono le 2-3 di notte, minimo. Se dovessi aspettare adesso manco allora, domani mattina col piffero che ci vado a Cagliari. Devo stare. Eh sì, andare in campanone, togliere il cane, tutto quanto, controllare il livello dell'olio, le cose, e poi mettere molte partite. Ma non è altro il microfono, Mario, quasi munga, zinga. Non è altro, no. Ho l'emetto accesso che me lo sta mettendo a posto un pomponio, poi quell'altro amplificato ce l'ha lo stesso lui, perché anche quello lì mi avrebbe detto che usciva a scariche, e così che non è altro. Però lì c'ha proprio una PTT, c'è molto sporco dentro. La rocca ci fa. Questa volta si copre anche la modulazione. Luca, ma Giulia, domani si ricomincia il lavoro, domani di nuovo il combattimento, Luca. Ah, quanto guarda. Ma io domani cazzeggio. Poi devo partire alle 7 per essere alle 9:30 lì. Così mi caricano una fretta. Poi da Cagliari rientrando devo passare a cosa? Gustini. Gustini devo di nuovo caricare. Diciamo che se tutto va bene, vanno a Cagliari, caricare, ci vuole un'oretta. Si fanno le 10:30, le 10:30. Alle 11, le 11:30, le 11:15, dovrei essere a Gustini. Caricare e partire da lì se tutto va bene a mezzogiorno. Vabbè, se tutto procede bene. Altrimenti partendo alla 1 o alle 2 sono a stessa di là. E rientro presto. Io sto dicendo andando bene, lo intrecio perché sono a faccia di andando bene. Ma scendere, posso scendere la veloce perché sono morto, ma a salire sono carico, sono macchine in guardia condizionata, sono ancora in famiglia, ci vuole andare, con quello che costano. Cosa c'è? Ma l'ho già comprata, ma comprata sabato, cioè ieri sera l'ho già piazzata, l'ho già anche attaccata, ma la roba bisogna lavarla. No, è un casino. Così che ho comprato l'apparato, ho comprato qualcosa, la lavatrice, adesso sono scattato. Via. No. Ma ho un altro. Papa. No, lo so soppresso. E l'hanno. Non riesco a farlo andare come dovrebbe. Io quando mi fa M e cosa, qui vuol dire che già va bene, invece non è parente del fratello, perché io ho stato il fratello che sta dietro e usciva benissimo, aveva solo un difetto che slittava, gli faceva fare gli scivoloni, poi guappa adesso sta provando un poco di microfoni per vedere se la modulazione migliora. E tutto va a vedere. Solo che adesso bisogna farsi portare dei microfoni, provare questo, provare quello, provare quell'altro. Poi con quello che esce meglio, ammirarli quello lì e usa il barattino, guarda. Già usa il barattino io. Sto collegando il baracchino perché io qua sto mettendo l'appoggio al microfono, se no è un casino. Ma era chiusa a metà, cioè è essendo chiusa a metà, cosa succedeva? Quando andava, già fatemi indietro questa cosa. Capito? Poi l'ufficio smalatamente, non si sa come, l'ha spinta e ha fatto quello scatto di quella mini serratura elettrica là, quella che dà l'impulso per avviarsi dalla matrice, oppure lo scatto lo fa all'incontrario per potersi aprire. E niente, come l'ha spinta è partita la lavatrice in quarta. Finire di fare il suo lavaggio, diciamo così, senza mettere in acqua. Quando ha finito, ho visto dove si è fermata, e niente, è andato tutto bene. L'ho aperta, nel corpo così su fuori, ho visto tutta la situazione. Ciao, mille funzioni però. Allora, ciao, mille funzioni. Niente, e poi stamattina l'ho messa a lavare, gli ho messo la roba dentro, e niente, si va tutto ok. Cava, sono con le nuove generazioni in classe A, mi immagino, o no? Cava. Senti su che quanti ci dicerà? Adesso non me lo ricordo, comunque un me, gira un me. Forse anche un coso per farla girare meno veloce, più veloce, porta... Meno veloce quando c'è roba che devi tirare, in modo che non trovi che non si fa troppo. Dici, sono quelle nuove di generazione, magari di costruzione sono inferiori alle altre, a quelle di 20 anni fa, che quindi duravano una vita, però fanno un sacco di funzioni per il risparmio energetico, meno rumorose, meno vibrazioni. Come c'è l'accesso in plastica o in acciaio, la vasca? Allora, la vasca è in acciaio. Hai presente il vecchio cestello come era fatto? Era in acciaio che aveva dei bordini piccolini, sempre sagomati con cestello in acciaio. Invece questo qui c'è il cestello che rimane liscio, tutto rotondo. E ci sono dei cosi di plastica molto esiliti. Da fa. Ma perché esiste adesso che stanno facendo la vasca in acciaio, io quella che c'avevo io, nuovissima, della Candy, proprio nuovissima, diciamo, vecchia di età però nuovissima come è stato d'uso, si è crepato il cuscinetto all'interno, mi ha detto l'amico, quello che le rifà, mi ha detto, se ti metti a cambiare questo cuscinetto ti costa quasi quanto la lavatrice nuova. E beh, cappa, quando chiami qualcuno è così, perché... A me è capitato una volta con la caldaia che c'era e poi alla fine era una fesseria. Mi è costata più la chiavata con l'intervento che il pezzo che c'era guasto, perché era quello che mantiene la chiave aperta della caldaia a gas, no? Era andato in palla e non faceva più rimanere la caldaia accesa. Il tipo mi era costato all'epoca 50 euro per la chiavaccia, 20 euro perché non avevo venito da Cassino, e poi 10 euro il pezzo, 12 euro, boh, una cosa così. Ma cazzo, ma come dicono che sono cari carrozzieri? Vabbè, anche voi non ascoltate. Quando si arriva lì da voi sono valdementi corti, Ma c'è da dire una cosa, la manodopera influisce il 20% del valore della riparazione, perché costano meno i ricambi, perché se tu consideri se un danno di 1000 euro di manodopera ce ne saranno 200, il resto sono ricambi. Diciamo che io qua dietro, noi qualche giorno nel capita, noi forse domani sera la vedi, così ti faccio vedere anche una cosa che mi è successa oggi, cioè non è successa manco a me, è successa a mio figlio, niente, domani sera la vedi, va, pure al limite dice cosa dovrò rispondere, cosa mai fare il modo di arrivare per l'altra risposta. Venite verso quando c'è l'orario di chiusura, magari caso arriverà alle 7. Io adesso che vado un quarto chiudo, ma aspetto lì così magari non so arrivare un quarto d'ora fuori da solo. Allora, io sono a Cagliari da mare, ma non si è smoto, ma una cosa o l'altra arriverò un po' prima, là. Non ti faccio rimanere da solo. Io penso che arrivare lì tra una cosa o l'altra penso sotto meno 4, sotto meno 20. Gappa. Gappa di positivo, no, perché mi era venuto addosso Milli. Ho portato la macchina a riparare, ma se tu la vedi, mi dici chi è questo cattivo, perché sì, vabbè, per risparmiare, però a me la dormiciarlo bene, non costava niente. E invece ci vuole tutto il vecchio colore, è un casino. C'è troppa improvvisazione, la carrozzeria è uno dei mestieri, per non dire il mestiere dove si può bleffare più di tutti, ti faccio bello e contento all'inizio e poi ci vediamo tutti i rispetti. Gappa. Purtroppo succede quello lì che uno quando paga poi se ne va, perché magari uno non riesce lì a fare il pignolo, però poi come dice la macchina al sole. Perché tu lo sai che quando è all'ombra una macchina oscura non vedi niente. E come la metti al sole si vedono tutti i difetti. Gappa. Tieni presente che nessuno regala niente. Devi partire, io parto sempre da quel principio lì. Se ti fanno un prezzo molto basso rispetto alla media vuol dire che c'è qualche trucco. No. Il prezzo non era molto basso. Ma del gusto, Roberto. Ho detto in un altro posto, ma cosa vuol dire? Non ti capisco. E non che bisogna capire se stai dicendo la verità molte volte o se stai prendendo in giro. Scusa il BTT, fra. Guarda, prova, ciocca, saltoni. Ehi, ehi, va benissimo. Sono rumoroso a quell'apparecchio. Salutami a quella gente che li accena. Sono qua in ascolto, che sto facendo cosa? Sto collegando un baracchino. Ciao, sto collegando un barattino, così lo provo e uso quello, vai. Roger, domani è sul lì che c'è tutta la mia attrezzatura, sul giornalista. Ma non devo comprare niente io. C'è un sacco di gente che compra, che vuole comprare. E poi ce la attacca a bottiglie fra poco, va bene. Bocca c'è mia, state zitta, sono in coda X, c'è fra. Roger! Oh, fra. Dimmi, vabbè. Tu sei nel capo del computer, così è. Roger. Ma conosci il sito della Google, dove c'è googlemaps.com? Sì, è un sito... io chiamo un sito per le mappe. Appunto, mi hanno detto che ce n'è un altro più evoluto di quello, più particolareggiato. Io ci vado abbastanza spesso, capita molte volte di vederlo. Vabbè, adesso c'è da un po' che non ci vado, però devo conoscere qualche zona particolare, eccetera, eccetera. C'è un altro, però io non sono riuscito a entrarci, sono entrato nel motore di ricerca, però non riesco a leggerlo. Per quello devi essere innanzitutto registrato, e poi ci sono delle restrizioni. Cioè restrizioni di che cosa? Per certe zone? Sì, sì. Ecco, lo Google Maps è aggiornato, diciamo, a 4 anni fa più o meno. Si vede, addirittura si vede anche la parabola mia, c'è una definizione a 1,5 metri mi sembra, riesce a vedersi la parabola di casa mia, però c'è una definizione un po' più particolareggiata. Ma sai cos'è, Roberto? Che quelle cose purtroppo a gratis non le danno. Ma perché qualcuno me l'ha detto che ce n'è un altro tipo che l'ha visto, no, ma gratis sempre. Non parliamo di cose ultimissime, di ultimo, di, diciamo, giornaliere, perché ci sono i satelliti con l'immunitario che hanno le cose giornaliere e quelli sono a pagamento i satelliti russi. No, fanno immagini per dire di un paio di mesi fa, 3 mesi fa. Dipende dalla zona. È una questione di sicurezza, tra l'altro, è giunta. Cioè ci sono zone che puoi esplorare con un zoom, diciamo, perfetto, ma ci sono altre zone che invece tipo riserve, queste cose qua non le fanno vedere. Sì, quello è una cosa, infatti ci sono, lì c'è una definizione a 200 metri, molto, molto superiore alle zone militari, di interesse particolare, diciamo tipo la Ginara, zone così, però diciamo le zone, diciamo, cittadine dove non ci sono grosse cose particolari, di lì ho visto fino a un paio di metri riesce ad arrivare le definizioni, però sono molto arretrate come età, diciamo, come epoca, sono di almeno 3 anni. Ma è una questione di legge, capito? C'è una legge che impone determinate restrizioni, purtroppo per me in Italia è così, all'estero no. Cappagappa. Dipende, Mario. Cappagappa. Andrà bene, andrà bene. Ok, ma tu non modificare il computer. Per curiosità, guardate, per dire, c'è la barca mia, io ho la barca ancorata a Porto Torres e si vede in queste immagini, però sarebbe bello vederla in tempo reale, così difficile se mi hanno spostato, hanno fatto qualcosa. Cavolo, tu vuoi troppo. Allora, a quel punto lì è come che c'è una telecamera puntata sopra. E ci sono le telecamere, noi non possiamo entrarci tranquillamente, c'è il diritto di cogne, non so se avete sentito, ci sono delle immagini, qualcuno è riuscito a entrare a pagamento, costa anche parecchio, e ti danno l'immagine a quell'ora lì, il satellite quando era puntato, e ti dice chi è entrato, io non riesco a capire infatti perché non le utilizzano quelle immagini. Aspetta un attimino, Robert, scusa Mario, Claudio, sei lì? Oh, me lo dai un attimino nazionale? Nazionale? Sì, Roger. Ma per il ricevitore? K 431-862.5. Roger. Il primo Mario. Quattro gaffa. russi lì, No, no, grazie, a pagamento costa parecchio, i russi si stanno facendo ricchi con questa cosa. Dai, grappa, loro avevano fame e allora hanno inventato qualcosa dove poter attingere il denaro facilmente. Quando addirittura quando c'era la guerra del Golfo, gli americani, erano rendere pubblici gli spostamenti dei mezzi militari, hanno acquistato tutti i diritti di questo sito, di questo russo, questo satellite russo, gli hanno detto io ti compro tutte le immagini, però non le devi far vedere a nessuno. Gatto, perché se no li scoprivano. Gli alunni adesso col satellite vedi tutto, c'è la definizione fino a 10 cm, ti leggi le pagine del giornale, quelli satelliti di nuova generazione a fare. Adesso siamo tutti spiati. Tu non so se l'avevate visto quel film, il nemico pubblico, chi l'ha visto? Io no. Tu non l'avevi visto? Anche io. Mai. L'hai visto qua? No, Robbene, l'attivo, non l'ho visto. Di quel tipo, di quell'egro, Will Smith, che era, avevano incastrato, diciamo, un poliziotto, lo cercavano col satellite, come si muoveva, sapevano già dove era in qualunque momento, muovevano le carte di credito, internet, qualunque cosa, sapevano dove era. Vedi Mario? Purtroppo siamo una guerra moderna, adesso si siano dappertutto, adesso stanno anche quattro volte in Germania. Dillo a Buffolini, quello è vero, mi ti dicono tu devi tagliare tre volte al giorno, tre volte alla settimana, consumi tanti litri di acqua e ti faccio pagare tanti litri di depurazione. Guappa, guappa, vabbè, purtroppo così. Ah, vero. Tra poco ci metteranno anche il contagiri con tutta la cosa che ci muoviamo e che ci rispediamo. Non c'è la meraviglia se tra qualche centinaio di anni ci faranno pagare anche l'aria. Gianni non è rientrato, Gianni ci sei? Mi prendi tu Fra? Mi prendi Mario, dai? Bobo. Mi prendi Mario? Vabbè, Roberto. Mi dimmi? Sono sparito, stavo chiamando, ti dicevo riprendi Mario. Ma mi sembrava che avevano fatto la porta e ci hanno allottato bene. Dice che la propria notte era quella di su. Siccome tutti abbiamo i muri molto sottili, allora bisogna fare attenti. La faga, però sentivo un basso io adesso, però non so chi sia. Di boia. Che c'è cambio freddia. Che faccio da male. Che faccio da male. Se passo un segnale. Sicuro sì. E se quello sono, se sette, con le decisioni quasi su una scala. Se non altro le voci, se accendo un altro baracchino, quello grande, quello tocca un bel chiuso per il rumore, infatti con questo già è poco il segnale. Là. Grazie, grazie. Pronto? Dimmi, dimmi, dimmi. Allora, mi devi dire di quei due qual è quello che butta fuori più roba, perché bisogna fare un piccolo alimentatore. Ah, di quei due trasformatori? Grazie. Sì, adesso lo controllo, qual è che va meglio. Quindi gli metto condensatore e lo uso per fare l'alimentatore del baracchino monogatto. Vabbè, ci vuole anche il coso naturalmente. Lo stabilizzatore, se non lo dava. Ci vuole un condensatore stabilizzatore e... Allora... condensatore, stabilizzatore e un'altra cosa ci va, aspetta, comunque se non me lo ricordo, quando me lo ricordo te lo dico. Comunque tu guarda qual è più nuovo le due per fare il metatore per il baracchino, perché vedo pure le furie almeno il 50 S. Ma la ritrattore? Papà. No, capito. Ma questo così mi risparmia 30 euro. Sì, va bene. Dottore, dimmi. Chi sta parlando poco fa? Sto vendendo tutto subito. Tu o Franco? Non ho capito. Io non sto vendendo niente. Ma poi tu mi chiami Mario. Io c'ho un suo qua. C'è qualcun altro che sta vendendo tutto, io no. No, ho capito bene, era Franco. Certo, lascia vendere, lascia comprare. Capire cosa stava vendendo? Non vendere computer, non è il suo lavoro vendere computer. Come? Roberto, c'è Claudio che ti chiama. Ma si parla di calcio, eh? A parlare di calcio! Ti sto guardando anche la partita, io. E a parlare di calcio. Lo prendi qua. Ma aspetta, lo collegando da anch'io, che così questo lo cambio di raccolta, lo lascio dall'altra parte. Questo con baracchino, vai. Un minuto solo, questo è comunque l'antenna, lo accendo e spengo questo. Fai comodo, ma vai che fosse a casa tua. Dove sei sdraiato, Mario? Cappa di positivo. Ecco. Adesso sono nella posizione che quasi ti metti tu a casa tua. E dipende, quando sto pompando cosa? Marrabbo. Sentite, sì. Sentite, sentiamo con le orecchie. Tutti, che modulazione brutta rispetto all'altra qua. Ah, gappa gappa, ho già completato tutto. Ma perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? diciamo, dalla camera di mezzo. Sono sempre piccolino, ho l'intec, quello, il portatile è sempre omologato. No, no, sono sdraiato, ce l'ho sopra la pittorra, per quello forse sto comprimendo troppo. Buona carica, buon tutto il telefono. Ciao, fra, buona carica anche a te. prossime là. Ciao. Ciao, buon coniglio. Anch'io, ciao a tutti, ciao, buonanotte. Ciao Luca, buonanotte, alle prossime. Il microfono normale già. Sì, certo, è normale. Io non sono col portatile adesso. vabbè, nel faccio metti il microfono normale quando esci in trasmissione. Kappa. Dimmi una cosa, Gianni, tra me e Claudio, differenza si sente di barattolo con questo qua, con questo portatile? No, tu non sei barattolo. Non sono barattolo, io mi immaginavo un suono di scatoletta io. No, va benissimo. Aia, un gatto mi ha morsicato il piede. Ti ha morsicato? Il gatto. Ma che pure gatti c'hai? Ho un gatto un pazziano. No, a me i gatti, niente da dire, non vanno d'accordo, proprio sono animali bruttani, sì, ma il gatto non mi è mai piaciuto. Vabbè, dipende, se lo tieni se ti piace, nemmeno a me piacevano, io ho avuto un regalo e ai bambini è piaciuto, ai bambini è piaciuto e cose l'abbiamo preso. Ma è un gatto coccolone mio, è di quelli proprio coccoloni, mi mordisce il piede ogni tanto, ma te l'ho fatto giocare. No, non sto parlando di quello, secondo me il gatto per il carattere mio non va bene, è un animale troppo opportunista, tu mi dirai esattamente il contrario, però c'ho esperienze negative io degli animali, dei gatti. Quando stanno bene a te ci stanno, al momento ne trovano un altro migliore e vanno dall'altro, il cane mai, non ti tradirà mai. No, il gatto mio non è così, se la sicura non esce da casa, anche con la porta aperta. Arriva, ci dà l'uscio della porta, si mette sul tappeto e poi se ne rientra dentro, figurati, e quando ritorniamo a casa ci fa le feste, si miagola, si viene incontro. Sì, diciamo il gatto tuo probabilmente è rimasto da piccolino in casa, un gatto d'appartamento, però tieni un gatto di strada tu. Ecco, lui sì. Diciamo che quelli vengono fermati da mangiare e basta. Ma io ne conoscevo un amico, c'era un gatto che pare o 12 anni, 11 anni, un sacco di anni, da piccolino. Un giorno gli si è girato questo gatto, sono dovuto entrare i pompieri dentro la cucina, cioè, sono strappati, non riuscivano ad entrare, è uscito di testa questo gatto, aggrediva a tutti, proprio impazzito. È successo anche vicino a casa, la stessa cosa, si è arrampicato sulla tenda, i vigili del fuoco sono andati a prenderlo, perché dice che quando stanno proprio in casa poi possono partire. Io sono rivoltato al padrone, tu lo devi vedere con la figlia che era da piccolino, la curiva peggio di un figlio. Si è girato questo gatto, la graffiata, le ha fatto tutto di quello, lei è dovuta scappare in furia, ha chiamato il padre e non riusciva a calmarlo. Alla fine hanno chiamato i pompieri, non si poteva entrare. Non lo posso immaginare, è impazzito sicuramente. Ma vabbè, non è casualistico, spero che non sia così perché il mio gatto non perché sia mio. Gioca col bambino, il bambino ne fa anche di tutti i colori, non sopporta anche troppo, figurati. Si gioca, li tira la cola, li fa, io gli ho detto 1000 volte, non è un giocattolo, Marco, stai attento che ti può mordere. No, che non mi fa nulla, sì. Niente da dire, però il gatto c'ha sempre lo spirito, come diciamo, selvatico. Il cane, io non ho mai sentito di un cane, anche al punto di morte, che si rivolti col padrone. A meno che, diciamo, non ci sia il motivo, magari la lo picchi, ma rarissimamente. Vabbè, ma che si racconta cosa detto? Cosa ha detto? Cane, dice. Cane e gatto, hai detto ca... Vabbè, un incrocio tra il cane e il gatto, il cane e gatto. Non sarebbe così il mondo, non andrebbe a rotto. I gatti ci sono gli aggressivi, ci sono quelli bravi, ci sono quelli mansuiti, ci sono quelli di caro. Il mio non ho mai fatto male a nessuno, la verità. Ma facciamo riprendere un po' anche agli altri, chi tocca Mario? E via, avanti Mario. Allora, io ci avevo due gatti, ci avevo un persiano e un altro che non era persiano, però era mezzo, e il cane. E dormivano tutte e tre insieme, mangiavano tutte e tre insieme, niente. Allora, i gatti quando sono andati in calore hanno saltato uno ed è andato via. L'altro, il cane giocando, l'ha pigliato per il collo e gli ha pesato l'osso dal collo. E niente. E poi si è morto pure lui, dopo 15 anni. niente, adesso non ne voglio più perché è un gran sacrificio per io. Mario, vuoi fare qualcosa per sollevare un po' la radio perché sei basso basso? Come? Eri basso basso, non riuscivo a ascoltarti, eri troppo basso di radio, se puoi fare qualcosa. Non posso fare niente, il microfono normale è apparato, omologato. Lo dico avvicinandotelo di più alla bocca magari, o stai abbassando la voce troppo bassa, cioè. Ah, no, e allora se per quello va bene, così mi senti meglio. Appa, no, forse eri troppo lontano dalla bocca. Perché non mi sono reso conto perché questo qui è un microfono normale, se me lo allontano distrattamente succede che la modulazione abbassa. Capo, anche adesso un pochettino di bassino, dai, rispetto a prima, a momenti sei più forte. Riprendi tu, Antonello. Io invece come mi senti, a me il microfono ha conficcato. E beh, cosa vuoi che ti dica? Perché hai parlato Mario? Perché te lo sai tu. Davvero, cos'è l'M300 è quello? Ah, oh, qui che parlare. L'M300 non l'hai fatto. Mi ha pensato il pulsante, ma ci passa di radio ancora. Dobbiamo controllare che ci sono gli altri tipi. Gaffa, gaffa. Comunque, a questo paracchino domani, quando rientro, bisogna che si dà una controllata perché è tutto a scarico. O adesso è un processo per il temporale, boh. E ti sento bene, sai che non stai dicendo. Come? E ti sento bene, mica faccio una scarica qua. Ah, tu sei da scariche? No. Insomma, io ho detto che in questo paracchino si sentono belle scariche, forse è temporale che c'è fuori. E vabbè, c'è anche io l'antenna, era io che sei, sta volando, sta volando lì. Gaffa, gaffa. E lo so dire un po' malotto, vabbè che sei rimasto ancora. Pazzo, pazzarello, te lo sai. Ti metti cappotto per mi fuori l'uccello. Allora cacciamo la canzone sotto il vestito gente. Sono salami di salame di noi. Gaffa gaffa, riprendi Gianni. Dove il baracchino acceso c'ho me? Ah? C'ho il baracchino acceso. C'è il baracchino acceso? Sì. Che c'è il baracchino acceso? Ma c'è mia moglie vicino però. Ah, mi capo non è che mi male, scusami. Riprende già. Claudio è sempre nel guasto come le pantere. Ho permesso che malizioso, scusami. Non ho mica parlato di altre cose, no? Sono come essere al braccio. Avanti. Oh, Roberto Quadrato, avanti. Ha chiamato tutti la voce stanca, anche tu Gianni, da lontano lo sta tenendo il microfono. A Mario da sola non riuscivo a sentirlo, adesso piano piano anche tu ti stai appassendo. Beh, succede quando uno è stanco. Io ce l'ho sopra il petto, appoggiato sul petto, vabbè voi ci avete il palmare, io ho direttamente l'apparecchio vicino alla bocca, me l'ho appoggiato sul petto, sono sdraiato, è alla stessa distanza sempre. Va bene, andiamo a quello là, devo tomare il papà oltre. Cappa. Rientra sabato prossimo allora. Non lo so se la prossima settimana avviene. Vabbè, hai telefonato male. Così mi si trova con la gente che va su che c'è a Vermole. Che c'è la casa sua. Cappa. D'accordo. Vabbè, meglio va. Sì, sì, già va bene. Mario, te lo sento quasi niente. Siamo rifatto Mario. Oh Mario. Porco. Mario. E già. Adesso sei tornato a basso. No, io sono tornato a basso. Mi sono tagliato il formaggio e te ti credi. Prenditi un imbuto, ti metti un imbuto e amplifichi con l'imbuto. Oh, perché tu cosa fai? L'imbuto ti metti? La legge te lo permette, ti metti un imbuto e amplifichi come si faceva prima che girava nel corno, non l'hai mai visto? Gappa gappa. Pellicino. Lei è andato a me? Sono andato a Pellicino. Beh, uscì. Chiama. Cos'è Paoletto? Non è ancora uscito? Non devo battagliare a quest'ora. Tutte le domeniche notte lo sentiamo, che parte lui? Mi sembra che mi sto, mi studio. Questo doveva partire questa settimana, infatti a Mario l'ha detto Mario se si vedeva lì, lui partiva, doveva essere alle 8 mi sembra a Cagliari. Ma guarda, perché Mario domani deve andare lontanuccio. Ho capito, a Cagliari anche lui. I gusti mi pare pure mi ha detto. Non lo invidio per niente, tanto domani piove pura. Che ti vuole andare avanti, che ti stipate che? Che va sopra, Gappa gappa. Avanti che vuole entrare. Ma sentite, sta facendo una prova. No, io non lo sento. Non sento nessuno sotto. Anche perché c'è un po' di scariche e niente, poi ma deve essere dal temporale. Mario, non sei uscito. Come non sono uscito, sento che non mi ascolti. Ho sentito solo un pezzettino, e poi il resto non l'ho sentito. Non lo so. Oppo, questo qui è il microfono che mi ha dato stasera, amico. Se tu prendi di leggere cosa è più sul bagno, prendi va bene il microfono. Tutto il resto mi va bene, adesso sì. Non lo so, io lo saprei mettere sempre allo stesso modo. Comunque niente, stavo dicendo che devo andare a casa, caricare delle macchine di aria condizionata, poi rientro a passare a Gustavi e niente, caricare altro materiale, tutto da portare a Sassoli. Sì, guarda, poi c'è la mano di accompagnamento. Beh, campo di profittismo. Un attimo, quello che si fanno dai live, mi sono tutti con realmente che sto per addormentarmi, se no pure i miei tranquilli che mi addormento. Ciao ciao, ci sentiamo tutti. Ciao ciao, io sono perché non vedo ci sono donne, sono le stesse macchinari, cioè. Ma ricordi, quanti ti sei stato a dire. Ciao Gianni, alla prossima. Ciao Gianni, non puoi buonanotte e buona giornata per domani, che la riascoltiamo alle prossime trasmissioni. Grazie. Ciao, ciao, ciao, lo so che siete piaciuto come me. Ci sentiamo, buonanotte. Roberto. Dimmi tutto. Sono così che avete detto molto vicino al caso di rientrare. Quello che c'è al circolo, così ti fa compagnia quando scende. Non avete bisogno in compagnia di Gito, no, lascia per. E beh Mario, anche tu a dormire? No, io sono qua ancora. Però fra un po' così, perché domani mattina che sì, bisogna che mi preparo a esercizio a partire. E adesso mi sono messo a fare. Tu che ora fai invece, Antone? Allora delle mandrone o ti alzi normale? Io voglio che la sua vicina casa tua alle 9. Ma è a presto quindi? Sì, è già abbastanza. Dunque da sempre ti riconosciamo, se tu lavori di fronte a quel mare ci conosciamo. Ma quale banca dicendo? Quello che c'è vicino alla banca. No, no, no, forse stai dicendo un'altra persona. T'ho capito, ma non sono io. Mi che la treccia, no? Che cosa? Ma io mi dici la treccia, no? Sì, sì. Che mi consiglio? Come la gente si vuole? Dunque, io qui sto vedendo dove sono, sono bene, mi. Sono tutto per il metro delle onde qua. Luca, ti ha cercato casa in mezzo alle negre. No. E scappa l'altro giorno. Ero parcheggiato lì, dice, no, alla fine. tutti gli indiani. È uscita questa, ci aveva un bel culetto tondo, ma quel più chi è? Solo che c'è una cosa, che quando ci avesse troppo gli esce quella puzza, beh, vabbè, ma sì, secondo me c'è da sapere, se fa mezzo in questo deve regalare i mutanti, che affari a fa. Che si mette molto il profumo. Chi c'è ancora? Luca Fripa è sotto? Sì, io. No, io non lo devo far sentire. Grazie l'altro Luca. Avevo l'antenna prima poi metto a casa e stava parecchio buono e l'antenna non serve. A momenti arriva, a momenti non lo prendo. Cosa ci vuoi fare la vecchiaia? Io ne ho preso di lui fino a 2 mesi fa. Lo so. Dai, vai, riprendi tu. Che cosa ne prendo io? Boh. Allora, non sappiamo gli escursi validi. Cosa se mi aveva detto Luca della lavatrice? Se no, Mario non è riuscito a aprirla e facciamo un mezzo per prendere le istruzioni. Capo, non stava scherzando. Io ho detto, che cacchio non sarà che faccio la lavatrice nuova, no? E ci mancherebbe. Oh Giulia, ma cosa ci vuoi fare? Riprendi Pupù. Cosa ti domani mi dice quella cosa che ti ho detto la lavatrice, va direttamente là, tanto ti mandano un altro posto, ci arriviamo a fare uguale. Tutto a posto Pupù, tutto regolare, non c'è più problema. Ah, si sta già andata. No, sono riuscito a aprirla. Ma vedo, che cosa ti voleva? La serratura chiusa a metà e la lavatrice non partiva e l'oblò non apriva perché c'era quel mezzo un po' bello di sicurezza che non la faceva aprire. Poi abbiamo spezzato tutto, abbiamo staccato tutto e partito tutto tranquillo. Ah, meglio così. Domani l'avrebbe portata la assistenza e non ne avrebbero cavato piedi neanche loro. Ho fatto una riserva, c'è. Oh, Lu. Tu là, non è entrato. Io non ho sentito, chiedi a loro. E io, vabbè. Ragazzi, Luca. Luca. Ho già dato muori di tutti, no? Pupù. Sì. Sì. Beh, come sto facendo io con questo apparato di cacca? Sono Mario, che ti sento meglio. Mi senti meglio? Perché... ho fatto così e la voce si è schiarita un po'. Sì, no, se sei troppo un po' più distante non ti capisco, se sei troppo basso, devo alzare il volume e poi seguire Bartolello. Kappa. Sì, così forte esco io. Sì, devo, Mario adesso è basso di radio, tu sei molto più alto di lui, devo abbassare e te alzare con lui, poi quando parli tu mi faccio la recce, ce l'ho vicino all'orecchio. Sì, ecco, è nulla. Poi c'è, vedrai che ci toccherà abbassare il volume a zero. Ammazza, tu lo puoi abbassare adesso nel Mickey Game? Io? Sì. Aspetta. Va bene così. Un passaggio? 1, 2, 3, 4. No, così c'è troppo basso, sale appena. 1, 2, 3. Ti lascia così, già va bene. Era meglio prima, però almeno non mi credi. Perché devo alzare il volume per sentire a Mario. Ah, ho capito. E per fortuna che è capretto, Cosa miello? Che sta facendo? Quanto mangio lo sta facendo questo baracchino? Ma da voi mangio lo che si fa? Tu non sei fatto perché per il baracchino che lo sai. Nessun mio servizio qui c'è tutto, sono peggio. L'unico tornado. Sì, signori. Pupù. Sì, mi dici. Io mi sa che mi addormento, che se no domani. D'accordo, allora, comunque, ci sentiamo domani. Bravissimi. Gamba. Vabbè, se sei in gamba. D'accordo. questo. Ciao Mario. Mario, vabbè, allora, l'ho perso. Ciao Pomponio, ciao anche l'ascolto. Tutto alle prossime, buon proseguo e buon tutto. Ciao ciao. Dove dov'è che ha pareggiato? Ah, sì, è vero. Ho tanto l'ovvissimo. Ma te la dico, vabbè, mi rinuncia. E un bel gol ha fatto di testa, proprio adesso, all'ultimo minuto. Un bel calcio d'angolo, era uno che giocava dentro e nella fine l'ha fatto. Ma tu c'hai Sky, così è? KK, ma me lo sacco, non me l'ha fatto di nulla. E via, cavallo. Ma finita. Eh? Ho capito. Perché c'è la porta che avevo fatto quello che ho chiuso. E adesso mi rifuo questa sigaretta. Dove quasi mai, mamma mia. Come respiro, mamma, è tanto fumo. E c'è un crebo non la voglio. Sì, poi mi rivolto il fumo così tanto per fumare. Tua dama. Per carità, ma non c'è più tutto il controllo. Claudio. Spardino mi chiamo lui. Ehi, vabbè. Spazzino, tu incontro, non Mattesi. No, Claudio Spardino, ciao. Io sono qua in ascolto, sì. Sto facendo cose al computer. KK. Quello che non ho fumato è io, mi Luca. Antonio, tu fumi? Ah, io bevo. Non si più mai, allora. Ora, ora, ora. Prova. Uno, due, tre. CQ, cari, CQ. Avanti, CQ, CQ. La puta non ne abbiamo. Avanti, questo CQ, CQ. Cosa è? Roba a mangiare. Tanto CQ, CQ. CQ di Elvis. CQ non le vendiamo. Che era amico che da CQ, CQ. CQ non le vendiamo qua. Poi veniamo ora. Cazzo, le uomo proprio non vuole smettere di piovere. Mistica. Come sta piovendo? Un bel. Aio, non mi c'ho vestita, aio. Su, su, ma perché sta giocando l'Inter, normale? Scusa un attimo, Marco? Marco? Non c'ho audio in ricezione, non c'ho audio in ricezione con questo apparato. Poi mi dite come sta uscendo di modulazione, dopo stacco, lo stacco e ne metto un altro, perché questo non l'avevo mai trovato, boh, forse c'è, non c'è collegato l'altro parlante esterno, perché non ho audio, non ricevo niente. Se vuoi fare qualche prova, Marco, sul canale 20, spostati, sono Claudio. 20 K. Chiama 12, 88, 248. Ragazzi, in 10 secondi sarà la canzone. Fa caldo. Pubblicità, per carità, fare soldi, quello, eh. Aspetta, faccio la 144. 12,88, usci, 12,48, blu. Tu vas a rimagare tutto tu, capito? Ti fanno pagare tutto, insomma mia. E che frega sto amico, è di brutto pure, via, che dolore. 1-1. Pareggiato, non per pazienza. Ha pareggiato, 59 punti abbiamo. Ma si sa che la sicurezza della Juventus, non è che ormai. Domenica c'è Juve Milan. Lo dico questo, devi vincere il migliore. Mi scappa. Luca, come l'ascolti tu a Luca Frippe? Ma io l'ascolto bene. A meglio di me arriva lui. Arriva meglio di te, più o meno lasciamo lì. Ma arriva basso basso. Ma io l'ascolto bene a lui. Santiago Nova arriva qua. Siete molto vicini allora. A me mi ascolti Luca Frippe? Ma Umberto, ricordati una cosa, ricordatela sempre, non sei infatti un signorante. Tu hai un'antenna, e quella che comanda l'antenna, non è baracchino, è l'antenna. Poi se è un baracchino tutto disastrato, allora un'altra cuba. Ma quando hai un'antenna e un baracchino funziona bene, esci bene, bisogna fare freno. Luca, diciamo che ha un apparecchio buono, ma l'antenna, per quello non lo senti. Ho preso la roba, ma la roba che è pulsante, prendi i colpi. Come te ne? Via. E adesso io interrompo, ci sentiamo, saluto a tutti, saluto a te, saluto a Luca e a tutti quelli che stanno ascoltando, anche Luca Flipper, anche se non riesco a sentirlo. Ciao a tutti, alle prossime, buonanotte. Ciao, vabbè, ci sentiamo alle prossime. Ciao, vabbè. ciao, ci sentiamo. E con questo qua, come mi senti? Una bomba è Marco, una bomba. Ma paghi qualcosa, no? mattina se saremo le buone tappe allora. Non puoi superare, cioè non superi tu il coso di... Cioè tu fai, rimane comunque di Biasi, che sempre è l'ora che paghi quei 20 euro, diciamo. Adesso vediamo, usiamo le prono e poi mi devo passare il campo qua in camera. Adesso vediamo. Filippi, in mare, un programma, io me lo invia. Ma c'è solo la signorina Bellina, Bellina in gamba. Sempre più meglio, mi spari chi sono. Ah, meno. Quando lo vediamo non entra, allora non ascolto, la fanno a fuoriare tu. Ho macchinato un po' di turno, passo il tappo, poi c'è un pezzo di radiale dentro, gli ho dato una pulizia, e ho visto che il radiale entrava qua, e poi quel pezzo di rotto ho fatto quattro buchi e l'ho attaccato su di ferro, e se ne andava. Ma già, ma questo è nuovo, questo mi ha regalato a Claudio, ho fatto qua 5 cosa qua, diceva un mese di vita, non ruba. Non è bussata come la latta, è un buco la bussa. La mia, diciamo, ricezione era un po' così, ma non magari, forse duro come questa, ma se non ci va bene mi facciamo sentire da tre parti. E la ricezione che era un po' così, ma è andata. C'è tipo mai qualcuno che io non sentivo, sì, non sento. Ma è rimasto, diciamo, io non sento. E l'altra, ormai lui, diciamo, ha fatto anche i buchi sopra, io avevo messo i bulloni per bloccare i radiali. Giù mi avvittavo tranquillamente, ma se so, mi avvito i bulloni, chiamano più, di trolla magari che ti ha creato. E allora messo lì, mi tratta acqua, c'è di nuovo si tratta, non stiamo appena come, cioè non stiamo andando più. Infatti è tutta una setta, bene, la sessuante, la mia bocca, perfetta. Vabbè, là, mi seguo, ci sentiamo là, ciao, buonanotte, ci sentiamo domani.